Ingrid. Parcheggiò davanti all'Oakland Skolan, spense il motore e restò seduta con le mani sul volante. La voce di Beyoncé usciva dagli altoparlanti. Era un'ora in anticipo. In 14 anni come giornalista, due dei quali come corrispondente dagli Stati Uniti, aveva portato a casa non sapeva più quanti premi. Prima teneva gli articoli, i diplomi e alcune delle foto appesi alle pareti. Ma quando Tommy era diventato direttore, poco dopo la nascita di Lovisa, avevano deciso di comune accordo che era meglio se Ingrid fosse rimasta a casa con la bambina. Essere direttore dell'Afton Pressen era più di un lavoro. Era uno stile di vita, come diceva Tommy. Se fosse stato il contrario, se il posto fosse stato offerto a lei, lui avrebbe fatto lo stesso sacrificio, le aveva assicurato. Alla fine, Ingrid aveva ceduto. Aveva infilato le foto dei suoi successi professionali in uno scatolone IKEA, lo aveva piazzato in fondo al ripostiglio e si era dedicata al ruolo di moglie che sostiene il marito. Negli ultimi tempi, però, pensava sempre più spesso di riprendere a lavorare. A volte, quando era a casa da sola, tirava fuori lo scatolone e frugava tra i ricordi. Anche quel giorno lo aveva rimesso a posto appena prima di andare a prendere Lovisa a scuola. Qualcuno batté sul finestrino, facendola sobbalzare. Ingrid sfoderò il sorriso da mamma e soltanto dopo vide che si trattava di Birgitta Nilsson, la maestra di Lovisa. Stupita, guardò l'ora mentre abbassava il vetro. Mancava ancora parecchio alla campanella. Come mai era già uscita? «Visita medica», spiegò Birgitta con un sorriso. «Niente di serio, un controllo di routine». A Ingrid piaceva Birgitta. Ormai era vicina alla pensione. La classe di Lovisa sarebbe stata la sua ultima. «In bocca al lupo», disse Ingrid. «Ieri ho visto Tommy in TV, ad Agenda. Quanto è bravo, così intelligente, così bravo a parlare. Deve essere orgogliosa di lui». «Molto. E pensare che l'autunno scorso ha trovato il tempo di venire a parlare in classe del suo lavoro, con tutto quello che deve avere da fare. Quando gli altri insegnanti hanno saputo che sarebbe venuto, abbiamo dovuto prenotare l'aula magna. Lovisa era al settimo cielo, e anche io». «Mi fa piacere. Sì, Tommy riesce sempre a trovare il tempo per le cose davvero importanti». L'insegnante infilò una mano dal finestrino e strinse la spalla di Ingrid, prima di voltarsi e sparire in direzione della metropolitana. Ingrid alzò il volume della radio. In realtà non le servivano conferme dell'infedeltà di Tommy. Lo sapeva già per conto suo. Dall'estate non era più lo stesso. Dava più importanza all'aspetto fisico. Si era addirittura preso un personal trainer. Prima discuteva di qualsiasi cosa riguardasse il giornale davanti a lei. Sapeva bene che conosceva le regole, che non ne avrebbe mai parlato con nessuno. Adesso, invece, se riceveva una telefonata, si chiudeva nello studio o usciva in giardino. «È la nuova policy della proprietà», le aveva spiegato quando lei gli aveva chiesto spiegazioni. «E poi tanto a te queste cose non interessano più, no?» Ma Ingrid voleva sapere chi era la donna che si scopava suo marito. Probabilmente una della redazione. Era così che si erano conosciuti loro due. Era così che si conoscevano i giornalisti. Ogni sera sfogliava la copia dell'Afton Pressen che Tommy portava a casa. Ormai non riconosceva più le foto che accompagnavano gli articoli. Molte delle sue colleghe avevano abbandonato il giornale, altre si erano lasciate alle spalle la faticosa vita della redazione per un posto da dirigente. I suoi ex colleghi erano al corrente che Tommy la tradiva? Provavano compassione per lei? O stavano dalla parte di suo marito, aiutandolo a tenere nascosta la relazione? Ingrid sapeva come scoprire con chi la tradiva, ma non aveva idea di cosa avrebbe fatto dopo.